15 dicembre 393. La casa di Claudio Claudiano è piccola, come quasi tutte quelle di Roma, ma allegra, piena di colori, in sintonia con il carattere del nostro amico poeta. Dal peristilio che si apre sulla parete di fronte a me, in mezzo a povere piante strangolate dal freddo invernale, si scorgono sia le colonne del Tempio del Sole che le Terme di Costantino, mentre sulla parete dietro a cui sono sdraiati Olimpio e Claudio è incastonato un bellissimo mosaico di una nave che entra in porto a vele spiegate sotto un fosco cielo turchino. È la decima ora. Le lingue di sole tiepido e pulito si posano sul letto triclinare dove è seduta Ipazia, illuminando la sua figura infreddolita, avvolta in tre tuniche di lana celeste. Dagli stivaletti che le fasciano i piedi spuntano calzini di lana bianca, mentre tiene le mani nascoste nelle larghe maniche della tunica. Ha rifiutato con sdegno la proposta di Claudio di vestirsi elegantemente prima che giungessero i nostri illustri ospiti e ora li sta affrontando con quella nobile curiosità dipinta sul volto, con quella bellezza di gesti e di pensieri che la rendono unica. È il nostro ultimo giorno a Roma e per questa occasione sono venuti a salutarci due personaggi d'eccezione, il prefetto del pretorio in Italia, Nicomaco Flaviano, e lo scrittore Simmaco Quinto Aurelio, ex prefetto di Roma, entrambi di nobile famiglia e fra i massimi esponenti della colta aristocrazia romana. Sono vestiti di sontuosi abiti da cerimonia. E allora, Ipazia, visto che la situazione ad Alessandria è peggiorata sotto tutti i punti di vista, segui l'esempio di Olimpio e di Claudio, resta a Roma anche tu. E così dicendo, Simmaco, dal letto triclinare su cui è seduto assieme a Nicomaco, protende le braccia facendo un caloroso invito a Ipazia. Anche se Milano è la capitale dell'impero, è sempre Roma la capitale giuridica, spirituale e culturale. I grandi occhi luminosi dell'uomo fissano con curiosità la mia maestra. Simaco modula la voce con la maestria dell'oratore consumato. Per questo io e Nicomaco siamo venuti qui per convincerti a restare, a trasferire qui il tuo centro studi, a far venire a Roma tutti gli studiosi e le studiose di Alessandria. Non potrei mai. E arriccia le labbra in un sorriso dolcissimo. Non fosse altro che per questo clima. E si sfrega le mani intirizzite. Un freddo come questo è un evento eccezionale e dura solo pochi giorni. E accorgendosi del sorriso gioioso che illumina il volto di Pazia, si accarezza la fossetta nel mento, assumendo una posa di complicità perfetta nella figura di nobile romano, elegante, colto e disincantato della vita. Amica mia, trasferitevi tutti qui, assieme resisteremo meglio. Se ci pensi bene, due città da sole sono rimaste a difendere la nostra religione, la cultura, l'arte, la scienza, il diritto, la libertà di studio, Alessandria e Roma. Ma per quanto tu, Shalim e gli altri allievi lottiate, ho paura che per Alessandria non ci sia più niente da fare. Siete soli, non ci sono famiglie influenti dalla vostra parte. Uomini di prestigio che vi affianchino, hanno distrutto tutti i vostri templi, hanno bruciato la biblioteca di Alessandria, e alza le spalle con un'espressione di remissività sul volto. Il vostro imperatore ha dato carta bianca al patriarca Teofilo. Ipazia torna a nascondere le mani nelle maniche della tunica, scuote il capo, un sorriso amaro sul bellissimo volto. Il nostro imperatore? Teodosio è il vero capo dell'impero e non solo della parte orientale. Nicomaco Flaviano interviene con la sua voce armoniosa. È vero, Eugenio non ha lo stesso carisma di Teodosio, ma alla testa dell'esercito ha un certo Arbogaste che la guerra la sa fare come nessun altro. Eugenio l'usurpatore, il nostro piccolo imperatore d'Occidente, ha le spalle il cui presente Simmaco, il sottoscritto e tutta l'aristocrazia di Roma. È timido, incerto, ma di buoni sentimenti e sa farsi guidare dai nostri capelli bianchi. Mi ha ascoltato e in tutti i 100 templi di Roma, che nessuno finora ha osato toccare, in tutti e 100 si è ricominciato a compiere sacrifici e a celebrare le festività secondo il nostro rito e la nostra tradizione, compresi i culti misterici. Il prefetto si alza dal letto triclinare, si avvicina ai pazzi, protende un braccio, indica la città eterna oltre il balcone, avvolta dalle prime luci rossastre del tramonto. Ho partecipato alle celebrazioni di Ecate, di Vesta, del Sole, di Mitra e di Iside, e assieme a Olimpio, qui a Roma, Abbiamo celebrato in onore di Serapis. Si volge verso la giovane scienziata, la fissa con una luce di speranza dipinta sul volto magro e rugoso. Resta qui a Roma, Ipazia. Riapriremo un serapeo come ad Alessandria. Ricostruiremo la tua biblioteca, sarai a capo del centro studi. Eugenio si accorgerà di quanto siamo uniti. Teodosio rifletterà sulla nostra forza e forse eviteremo una guerra. E Ambrogio? La voce squillante di Claudio ha spezzato l'ondata di calore e di entusiasmo che Nicomaco ci stava trasmettendo. Il poeta dal suo letto ci scruta con i suoi occhi furbi. Forse non avete capito. Teodosio è nient'altro che un ometto piccolo così. Né feroce, né buono, né cultore dei nostri dèi, né buon cristiano, semplicemente un opportunista che un giorno stabilì la sua sede a Milano, soggiornandovi ininterrottamente per 3 anni. Ma a Milano c'era un certo Ambrogio. Ambrogio aveva già accolto un tale Agostino di Ippona, grandemente anch'egli, uomo libero, gaudente. Amante della vita, uno spirito talmente libero da meritare una raccomandazione da parte del nostro qui presente Simaco, ma è il caso che continui lui. L'oratore tentenna, accenna un ghigno ironico. Beh, da quello che ho capito, avete conosciuto tutti Agostino in tempi non sospetti. Che mente libera, che uomo. Mi dissi che sarebbe stato estremamente utile se si fossero incontrati e nominai Agostino alla cattedra di retorica di Milano. Ambrogio era vescovo, per sbaglio. Era un gran politico, aveva accettato la carica di vescovo per soggiogare gli uomini. Agostino l'avrebbe liberato dai suoi progetti ambiziosi. E invece, in 3 anni, è stato Agostino ad essere sottomesso, convertito al cristianesimo e battezzato. Da 2 anni è sacerdote e si avvia a diventare vescovo. Oh, Plauto, che commedia divertente avresti potuto scriverci. 3 anni, infatti, riprende Claudio. Ad Ambrogio sono corsi 3 anni per fare tabula rasa delle doti originarie di Agostino e 3 anni per soggiogare Teodosio. Ho paura che le sorti dell'impero, di tutti e due gli imperi, dipendano solo da lui, da Ambrogio. Meno male che il nostro Eugenio non lo vede allora. Ambrogio si rifugia sempre più spesso a Faenza. Sospira scherzosamente Nicomaco e comunque nelle lettere che gli manda, a parte qualche rimprovero, non gli scagli anatemi come fece con Teodosio. Oh, è un grande politico, attende. Sa che c'è Arbogaste, sa che dietro ci siete voi, che con Eugenio c'è tutta Roma. E Claudio indica la città eterna oltre il balcone, immersa nel tramonto che avanza. Shalim, domani non partiamo più per Alessandria. La voce di Pazia richiama l'attenzione di tutti. Eh sì, ma qua sgranare 2 occhi felici. Allora resterete a Roma. No, amico mio, no. E non per sottrarmi alla politica, ma ognuno la fa a modo suo, non volermene. In questa settimana ho visto quasi tutto di questa città di 1 milione di abitanti, unica al mondo. Ho visitato gli Horrea Cartaria sull'Esquilino, e poi i 5 teatri maggiori, i 9 fori, una buona parte dei 100 templi, e ho rovistato nelle 20 biblioteche pubbliche rimaste aperte. Ma intatte e funzionanti, Pazia, intatte e funzionanti, non puoi negarlo. Le altre 10 che il Papa è riuscito a far chiudere, in fondo non è che fossero così importanti. Già, ma non ho visto un solo testo di scienza, Simaco. Nemmeno nella biblioteca del portico di Ottavia e in quella del Foro Traiano. Non uno studioso di matematica, di astronomia. In oltre 1000 anni Roma non ha dato i natali a un solo scienziato. È inconcepibile. Qui vivete solo per il diritto e per la politica. E i suoi occhi traboccano di incredulità. Simaco ha seguito con bonaria attenzione il suo sfogo. Hai pienamente ragione, Ipazia. Qualche buon testo si può trovare in alcune biblioteche private, ma è sempre poco per te. Io so quello che cerchi e so anche dove avresti potuto trovarlo. Gli occhi di Ipazia si illuminano di speranza. L'uomo prosegue con il suo atteggiamento disincantato. Si capisce che partecipa alla discussione per il piacere di stare assieme a noi, ma senza la fiera acutezza e l'incorruttibile severità della mia maestra e di Nicomaco. Ero giovanissimo. Non davo alla pergamena e al papiro l'importanza che forse meritano, eppure quell'elenco mi rimase impresso. Democrito, Anassagora, Leucippo, Ecateo di Abdera, Metrodoro di Chio, nella biblioteca di un senatore qui a Roma. Era l'elenco di una parte dei testi ospitati. Non nella biblioteca del suocero di Giulio Cesare, Lucio Calpurnio Pisone, portati dalla Macedonia quando era console. Ma la villa si trovava a Ercolano, ai piedi del Vesuvio, 3 secoli fa venne sepolta dalla cenere e dal fango. Nel sentire l'elenco degli atomisti, il mio cuore si è messo a battere forte, mentre Ipazio ha chiuso gli occhi, forse per nascondere la delusione. Sono io a rompere il silenzio che si è venuto a creare. Perdonami, Simmaco, ricordi se in quell'elenco era citato Moco? L'uomo aggrotta le sopracciglia. Il suo sguardo vola lontano, torna a fissarmi, gli occhi si illuminano. Moco, certo, Moco, non l'avrei mai ricordato se non lo citavi tu. Chi era Shalim? Un grande atomista fenicio, vissuto probabilmente prima degli atomisti greci. Simmaco strizza un occhio. E di cosa si interessava esattamente? Della teoria atomica, come Democrito e gli altri. E giro il capo verso Ipazio, attendendo un suo cenno per proseguire. Spalanca gli occhi, con quel dolcissimo battito che usa per esortarmi a liberare il mio pensiero. Moco ha scritto un trattato sulla luce, su com'è composta, sulla sua velocità di propagazione, ma questo trattato è introvabile. Forse stava nella biblioteca di Ercolano. E la voce armoniosa di Nicomaco Flaviano a richiamare la nostra attenzione. Ma se è un testo così importante, devono esserci delle copie. Simmaco non ha smesso di fissarmi, incuriosito. Vuol saperne di più, gli si legge sul volto. La luce è il composto del sole, forse anche delle stelle. La voce delicatamente sonora di Ipazia mi viene in aiuto. La verità è che noi navighiamo tra le tenebre dell'errore. Ci occorre una chiave per poterci addentrare nel mistero della vita. Forse questa chiave è proprio la luce, forse Moco l'aveva trovata. Simmaco si volge verso Olimpio. Che ne dici, amico mio? È lecito addentrarsi così tanto in questo mistero? E così dicendo, protende un braccio e punta un dito tremulo verso il rosso bagliore del sole che sta inondando Roma, il balcone, la stanza. Il filosofo sacerdote si passa le lunghe dita di una mano fra i capelli rossi e ci fissa tutti con i suoi occhi miti. I nostri dei sono espressione della vita che pulsa nel sole, nelle stelle, nel cielo, negli alberi, nei ruscelli. Cercare di capire i misteri del sole, delle stelle e della vita che pulsa in essi è un atto d'amore verso i nostri dei. La voce cavernosa di Olimpio è in contrasto col suo faccione da bambino. Studiare la vita vuol dire amarla. Dai suoi occhi traspare serenità, una lucida consapevolezza dell'amore di cui sta parlando. Claudio avvicina ancor più il braciere ai piedi di Pazia, aggrotta le ciglia mentre si rivolge a lei. Domani non parti per Alessandria, ma non resti a Roma. Non dirmi che hai bisogno anche tu di una raccomandazione da parte del nostro Simmaco. La sua voce squillante assume una tonalità flautata, impregnata di ironia. Ipazia serra le labbra, tentando di spegnere il fremito di ilarità creato dal nostro amico poeta. Ah, ne ho proprio bisogno invece. È necessario che io vada a parlare con Ambrogio. Teodosio e Teofilo sono sue creature, devo conoscerlo, devo sapere come fa. Claudio si martirizza la barba corvina, fissandola con uno sguardo supplichevole. Ipazia, non è che ti fai convertire anche tu come Agostino? E liberando un sorriso impregnato di ironia, ma perché ci devi andare, amica mia? E la voce armoniosa di Nicomaco Flaviano a rispondere: per guardarlo negli occhi e per combatterlo. Volgiamo lo sguardo verso Ipazia, avvolta nelle grandi tuniche, tremante di freddo, ma con una determinazione nello sguardo e una forza luminosa che irradia dal suo volto. Tutto l'aspetto fragile della sua figura svanisce nel polverio del tramonto che sta inondando la stanza. Sappi che non sei sola, Ipazia. E il tono del prefetto perde il suo perenne tono di gentilezza. Sul volto magro e rugoso, tracce di un orgoglio incrollabile. Prima o poi Teodosio dovrà fare i conti con noi. E allora tutti i monaci di Teofilo e di Ambrogio li arruoleremo noi. E se vorranno mangiare, dovranno combattere nel nostro esercito. E le basiliche di Ambrogio le trasformeremo in scuderie. Abbandona i nostri sguardi, immergendo i suoi occhi nella scia del sole che va polverizzandosi. Pagheranno per avermi chiesto di partecipare alla distruzione della religione dei miei avi.